Trattiamo i prodotti del territorio, della terra italiana, che sono le verdure. Quindi il processo di qualità si basa sul controllo della filiera, dalla coltivazione, quindi dal controllo della semente, arrivare alla produzione e a portare il prodotto sulla tavola. E ogni processo, ogni step di questa filiera viene da noi seguito molto attentamente. Chiaramente il punto focale è la materia prima che utilizziamo, che è anche il motivo per cui noi abbiamo aderito alla piattaforma programmatica di Symbolax. Noi siamo soci promotori della Fondazione Symbola sin dall'inizio, quindi l'arrivo alla Fiera Campionaria è solo la conclusione di un percorso che abbiamo iniziato con Symbola sin dal momento di cui si è parlato delle prime idee, da quando Ermete Realacci e Renzi ce l'hanno proposto questa attività. Per quanto riguarda il fresco, noi produciamo in Italia, vendiamo in Italia, quindi è un'attività prettamente italiana, sia la coltivazione che la produzione di quello che è vero che tanta materia prima italiana dell'agricoltura finisce anche all'estero, questo è... Voi la trattate e la distribuite in Italia? Noi la coltiviamo e la produciamo, quindi fondamentalmente è un processo di produzione molto semplificato, quello dei cosiddetti prodotti di quarta gamma, che è la verdura fresca, pronta all'uso. E noi la confezioniamo qua in Italia, un processo semplice e per il mercato italiano, con delle zone di produzione che vanno dal nord al sud dell'Italia. Quindi per quanto riguarda la coltivazione, noi seguiamo quelle che sono le peculiarità territoriali, quindi a livello di biodiversità, e le peculiarità stagionali della produzione in Italia, e anche a livello di produzione abbiamo degli stabilimenti sia nel nord che nel sud, a Battipaglia, anche in Sardegna, proprio per coprire completamente il territorio italiano e per poter fornire questo prodotto, che è un freschissimo, un super fresco, sulle tavole in poche ore, insomma, quello che è necessario da quando la raccogliamo a quello che la portiamo in tavola. Ci sono una serie di problemi congiunturali, l'euro, il petrolio, quali influenze possono avere o stanno avendo, se le hanno, sulla vostra azienda? Beh, noi stiamo valutando attentamente tutto ciò che riguarda la crescita, soprattutto nell'ambito della categoria dei cereali, che sono comunque per noi una categoria importante nell'agroindustriale. Per quanto riguarda evidentemente il petrolio, influisce la crescita dei costi, influisce sulla logistica. Noi vendiamo un prodotto che in pratica nel giorno in cui lo produciamo anche lo consegniamo, quindi per noi la logistica è fondamentale. E quindi è evidente che questo ha un'incidenza sui costi.